macabro show, riaccendo stormi di un'immaginazione. Scandito in volo al sol di Salentà, che cadenza il far di un mutilato clan. Condannata a sfiorar per vocazione, dubbia normalità, vale in una visione, e chiama in voi risa una formità. Una fiacca mia, poi vi riporta qui a sposar la vita mia tra le magie di un freak. Sguardi ora sorti, mani che non ho, rimpiango un forte che per me servirà. Mentre gioca a scansar per vocazione,